Simone, che in Maremma visse e in Maremma morì. Morto è l'intrepido forte leone, è morto il celebre re di Lamone, e il corpo esanime giacente spento, pur dopo morto lo mette a spavento. Nel volto pallido, barbuto e fiero, potevi scorgere il cavaliere, potevi scorgere che quel brigante aveva nobile civil sembiante. Era Domenico Tiburzi detto, re di Lamone, fiero d'aspetto, 25 anni d'orribil vita, compie l'estrema sua dipartita. Manciano, oggi AD 24 ottobre 1896, alle 1:30 di notte, al podere delle forane, per mano dei valorosi carabinieri delle stazioni di Marsigliana e Capalbio, sotto il comando del brigadiere Demetrio Giudici, è stato ucciso il famoso e temibile brigante Domenico Tiburzi, detto Domenichino o il re di Lamone. Questa forca sia monito per tutti coloro che vogliono opporsi alla legge che stabilisce i doveri di ogni buon cittadino della terra di Maremma, per tutti coloro che non rispettano i proprietari terrieri. Lo Stato protegge i suoi cittadini mandando in questa aspra terra dei volenterosi gendarmi che combattono il crimine e l'abigeato. Oggi, 24 ottobre 1896, in una notte buia come la pece, io, Domenico Tiburzi, per colpa d'un agguato mi so sparata alla testa per non farmi pigliar vivo. Addio per sempre, miei poverelli, che ho sempre amato come fratelli. Chi uccide è ucciso, questo è il destino d'ogni brigante, d'ogni assassino. Tremenda pugna a fuoco ed ad armi, egli sostenne contro i gendarmi come un leone. S'è combattuto, ma al fin si spara, è deceduto. Ma prima d'andarmene da questo mondo mi garberebbe raccontare la storia della mia vita. Sono nato a Pianiano il 28 maggio 1836 dalla mia mamma, che si chiamava Lucia, e il mio babbo, che si chiamava Nicola Tiburzi, e mi dettero il nome del mio nonno, che si chiamava Domenico Tiburzi. Quando c'avevo 12 anni cominciai a lavorare come garzone, e il mestiere lo imparai da un pastore a furia di botte. Quest'uomo mi dava da mangiare a me e soldi al mio babbo. Quando c'ebbi 16 anni tornava alla mia mamma e da mi due fratelli, che tutti insieme vivevano in un posto come una stalla, e l'unica cosa ricca che c'aveva il mio babbo era un'asina e 4 pecore. Era l'estate del 1852. C'era caldo, afa, un monte di mosche, campi bruciati e nemmeno un filo d'erba per dar da mangiare a quei 5 animali rinsecchiti, che però ci davano qualcosa da mangiare: un agnello, un pochino di latte, qualche forma di formaggio e qualche chilo di lana, perché di poco si campa, ma di niente e si muore. Allora decisi di andare nella paiara d'un marchese che si chiamava Guglielmi e pigliare un fascio di fieno per non far morire quelle povere bestie. Quella paiara era grossa come una quercia, che trappigliando un fascio di fieno, lasciarlo star lì era uguale. Ne aveva appena preso una bracciata quando arrivò il guardiano in sella a un baio e mi disse: lascialo, t'ammazzo! Io gli chiesi che se davvero m'avrebbe ammazzato per una bracciata di fieno, e lui mi rispose: t'ammazzerei anche per meno. Allora butta il fieno per terra e gli dissi di tenesselo, e che era un servo dei padroni, senza coscienza, e che se la pigliava coi poveracci. Ninna nanna della maremma, il barone c'ha lo stemma, i miei bambini c'hanno fame, viva l'Italia il suo reame. Poi ribeva l'acqua sporca, chi si ribella va la forca. Il nostro mestiere è quello di assicurare alla giustizia i ladri come te. Sarà il pretore a indicarti la retta via. Ninna nanna è lo stagionale che lavora e che sta male. Stagionale suda e lavora tutto il giorno ad ogni ora. Si guadagna poco o niente, siamo tutti povera gente. Fui preso, processato, condannato, e mi toccò pagare una multa che la valeva di più di quell'asina e di quelle quattro pecore che avevo cercato di sfamare. Povero Tibuzzi, mi piatto nave a niente, dalla miseria divien se delinquente, la rinciuffra rillallero, la rinciuffra rillallà. Ehi padrone, l'ave un campo di fieno, ai giorno di processo gli entrati buzzi che par che sia un ossesso, la rinciuffra rillallero, la rinciuffra rillallà, e torna a casa par diventato pazzo, nasce il brigante e morto gli ragazzo, la rinciuffra rillallero, la rinciuffra rillallà. Nel 1859, quando c'avevo 23 anni, facevo il buttero. Era un lavoraccio, ma era sempre meglio guadagnarsi il pane lavorando a cavallo in quelle praterie piene di sole e calde da schiantare, che invece piegare la schiena sulla zappa, sulla vanga e sulla falce come faceva il mio babbo, che a 36 anni pareva ce n'avesse 80. A casa poi ci sapeva una miseria che anche topi scappavano con le lacrime agli occhi. Poi, il 9 maggio del 1859, mi sposai con Veronica Dell'Aia. C'aveva 16 anni e era proprio bella, ma bella per davvero, talmente bella da non parere neanche vera per quel postaccio. Il nostro viaggio di nozze fu parecchio corto. A cavallo della somara del mio babbo Nicola s'andò da Pianiano infine alla nostra nuova casa, a Cellere. Un giorno mi trovavo nella grotta del Mandriane con gli altri butteri. Pioveva e faceva freddo. Allora si accese un fuoco per scaldarsi, s'arrostì una lepre ammazzata nella piana del diavolo e ci si beve sopra un bel fiasco di vino di canino. Poi si montò su cavalli e s'andò a controllare che le bestie non fossero andate a mangiare nelle terre del Guglielmi. Purtroppo tre bovi erano già di là dalla rete e mentre si cercava di riportarli via, arrivarono proprio i guardiani del Guglielmi e se ne accorsero. Noi si provò a dirgli che si era disposti a ripagare i danni, ma loro risposero che si sarebbe pagato il danno, sì, ma davanti al giudice. Io non ci vidi più, sparai e n'ammazzai uno, il primo. Dopo averlo tenuto in carcere, in attesa di giudizio per un anno, fu processato in nome di Sua Santità, Papa Pio IX. Il tribunale lo condannò a 18 anni di galera, alla liquidazione dei danni verso l'offeso e alle spese processuali. Il cursore pontificio consegnò copia della sentenza al condannato il 2 settembre 1869. Il condannato Domenico Tiburzi poteva essere contento della sentenza, poiché noi gli omicidi li consegnavamo a Mastro Titta, boia di mestiere, che gli avrebbe mozzato la testa o lo avrebbe impiccato dopo averlo mazzolato a dovere. Ma fortunatamente per lui lo chiudemmo in una cella di isolamento con le catene ai piedi. I 20 di settembre porta Pia, il Papa perse il suo grande potere, entrò degli italiani all'artiglieria e gli occuparono Roma con piacere. Tiburzi lo sentì dalla prigione e disse ora faranno l'amnistia, ma rimase nel luogo prestanzone, a briganti nessuna regalia. Poteva vivere senza la natura che se l'esse mandata alle saline, evase un giorno dalla sua tortura, di corsa ritornò alle sue colline. E si nasconde nei boschi più fitti, come giusto brigante fa carriera, da solo stabilisce i suoi diritti, sempre meglio che marci in galera. Volevo scappare dalla prigione di Porto Clementino. Il primo giugno di 1872 mi dissero che invece di lavorare nelle saline si doveva tagliare l'erba intorno al Bettolino, che era un posto vicino alla prigione. Si partì insieme a Antonio Nati, Domenico Annesi e a un secondino. Si incominciò a tagliare l'erba e poi, verso mezzogiorno, sarà per l'afa, sarà per la noia, fatto sta che il secondino si addormentò. Io me ne accorsi subito e insieme agli altri due disperati gli si andò vicino, gli si mise le falci al collo e gli si disse: «Non ti muovere o sei morto!» «Per carità, non mi rovinate», rispose lui. Gli si strappò di mano il fucile, si legò con la sua cintura alla staccionata, si imbavagliò con fazzoletti e si scappò via. S'andò verso Pianiano, dove il prete Don Domenico Danti faceva accordi coi briganti. S'arrivò a un paese che era ancora giorno, ci si infilò dentro una grotta e s'aspettò la notte. Appena fece scuro, poi s'andò dal prete, che ci dette da mangiare e ci regalò qualche vestito del suo babbo. Il prete più tardi mandò a chiamare il carraio di cellere, che ci venne a rompere cerchi di ferro alle caviglie. Poi, il giorno dopo, appena si vide il buio, ci si infilò nei boschi di Montauto, che da quel giorno divennero la mia casa. Dopo la breccia di Porta Pia, i gendarmi del Papa Re e le guardie del Granducato di Toscana furono riunite in una sola grande arma, quella dei carabinieri. Eravamo pochi, giovani e pagati male. Quando durante le nostre ricognizioni ci strappavamo le divise sui rovi, dovevamo rammendarcele da soli. In estate poi facevamo l'estatatura, ossia trasferivamo tutti gli uffici pubblici in collina per evitare la malaria, che in quei luoghi paludosi ammazzava a più non posso. Quelli che stavano peggio erano poveri. La malaria chiappava prima quelli che lavoravano a cottimo, che mangiavano poco e dormivano per terra. I contadini, se erano fortunati, campavano fino a 23 anni e se no si rompevano la schiena anche fino a 40 o 50 anni. Ninna nanna della Maremma, il barone c'ha lo stemma, il bambino sta sull'aia e si muore di malaria, stenti e fame, il barone c'ha il bestiame. Ninna nanna mio piccino, ho finito anche chinino, senza chinino e si muore, il bambino vai creatore. Vai creatore appena nato, ma il barone va rispettato. Fra la selva dell'Amone e le macchie della Maremma grossetana si aggirava impunito ormai da 15 anni il brigante Domenico Biagini. Era un uomo di altezza superiore alla media, di professione bifolco, e una notte, per motivi di interesse, ammazzò con un colpo d'accetta sul capo Luigi Contorni. Quando incontrò Domenico Tiburzi si misero insieme. Dopo pochi giorni rapinarono Luigi Bartolotti. La rapina fruttò 8.000 lire, che erano il ricavato della vendita delle olive del suo terreno. Dopo pochi giorni andai a trovare la mia moglie Veronica e i miei due figlioli, Luciano e Nicola, e gli detti un poco di quei soldi, perché stavano morendo di fame. Veronica mi disse che Davide Bonpadre c'aveva il vizio di impicciarsi degli affari mia. Così andai a trovarlo col mio fucile. Lo trovai che stava raccogliendo fichi tutto arrampicato sull'albero. «Scendi, buon padre, che t'ho da parlare!» Manca poco che dalla paura questo casca in terra. «Domè, ma siete matto? Mica mi vorrete ammazzare!» «Ammazzare no, ma ti faccio un avviso! Cerca di tenere a freno la lingua, sei morto!» Tornai da Veronica e mi disse che mentre stava andando al frantoio a prendere l'olio era stata trattata male dal sostituto, che gli si era avvicinato e ci aveva anche provato a toccarla. Imbestialito come un cinghiale, andò subito a cercarlo e lo trovò in piazza, e siccome questo vigliacco scappava come un animale e non si faceva pigliare, gli dovetti tirare una fucilata nel capo e lo lasciai lì per terra davanti a tutti, e poi scappai. Appena c'ebbi tempo andò a trovare mio fratello Giovanni per dirgli dove mi poteva trovare in caso di bisogno. Carabiniere mandato al confino, volta la carta e si vede chinino. Chinino e di briganti, volta la carta si vede i rimpianti e la vita è crudele, volta la carta e si sempre fedele anche in Maremma, volta la carta e si vede il dilemma di carabiniere che in Maremma e c'ha da stare anche per forza, volta la carta e si vede la morsa, e la morsa che tutti strizza. Volta la carta e si vede la stizza, e la stizza è per questa vita, volta la carta sei morto e finita, e la stizza è per questa vita, volta la carta sei morto, è finita. La prima volta che il mio fratello mi venne a trovare nella macchia fu per darmi una notizia molto brutta. La mia moglie era morta. Sentii subito una pena nel cuore, come se l'avessi ammazzata io per tutti i dispiaceri che gli avevo dato. E come i figlioli, come potevo fare allora? Come facevo a badarli? Allora mi venne l'idea di affidarla al mio fratello. La notte stessa di nascosto tornai a casa per vedere la mia moglie morta per l'ultima volta. Ma ci resta solo 10 minuti, perché per me era pericoloso farsi vedere in giro. Tiburzini Bosco Malzano, con il fucile e 2 pistole in mano, doventa brigante d'esser ribellato. Anche noi avevamo i nostri informatori, e uno di questi era Serafino Merlo, marito di Fiorangela Codelli, che era l'amante di Tiburzi. Proprio per questo Serafino odiava Tiburzi. Una mattina venne alla stazione dei carabinieri per riferirci che Domenichino era andato a minacciarlo e a picchiarlo la sera prima insieme al suo compare Biagini, ed il 30 aprile il pretore di Toscanella spiccò un mandato di cattura nei confronti dei 2 briganti. Appena Tiburzi lo venne a sapere si infuriò. Venne da noi la moglie Fiorangela Codelli a denunciare la sparizione del marito, e dopo 3 giorni lo trovammo buttato in una forra vicino alla campagna dove era solito lavorare. Nei mesi successivi non si sentì più parlare dei 2 briganti, ma noi per sicurezza aprimmo una nuova caserma a Cellere. Da quando Carabinieri vennero a Cellere, per me fu più difficile vedere i miei figlioli, e la mia vita la peggiorò di parecchio. Decisi allora insieme al mio compare di fare meno danni possibili per non farci cercare, ma dopo un po' soldi finirono, e così si rapinò 2 possidenti della zona, ma la rapina ci fruttò solo 65 lire e 2 mazzi di sigari. In compenso ci dettero 25 anni di lavori forzati, 15 a me e 10 al Biagini. Ci si nascose di nuovo nella selva dell'Amone. Il mangià non ci mancava, perché i possidenti ci davano ogni tanto dei soldi o delle robe da mangià, e noi in cambio non gli si bruciava il raccolto e non gli si sgarrettava gli animali. anche i contadini ci proteggevano, perché ogni tanto gli si dava qualcosa da mangiare, visto che se no morivano di fame. Perché d'accordo aiuta il fuorilegge, diventa brigante, deve essere ribellato. Fiore di maggio, fiore di gaggia, questo è il bosco più fitto che ci sia. Fiore di maggio, gli è fiorito i rasi, siamo briganti e siamo valorosi. Sopravvitto e scappa, brigante, brigante è scappato. Una sera poi, mentre si tornava dalla graticciaia verso il nascondiglio sul poggio di Montauto, incominciò a seguirmi una cagna piccolina. Io cercavo di mandarla via, ma lei mi stava dietro attaccata come un tafano sulla groppa di una mucca, e così decisi di tenerla con me e la chiamai Titta. Questa cagnetta restò con me per diversi anni e mi accompagnava anche alla caccia del cinghiale e del capriolo. Una sera poi, dopo tanti anni passati insieme, iniziò a abbaiare forte perché aveva sentito avvicinarsi i carabinieri che ci cercavano e gli stavano poco simpatici anche a lei. Io cercavo di farla stare zitta per non farci scoprire, ma lei era una bestia e non lo capiva. Mi toccò sparargli col fucile. Ci piansi quasi mezz'ora. I briganti non devono averla, amici, perché tanto prima o poi la va a finire male. Noi siamo condannati a star da soli. Certo. Ora che ci penso, aveva ammazzato il cane, è stata l'unica fucilata di cui mi pento in tutta la mia vita. I due briganti sparirono di nuovo per un po' di tempo, ma poi incontrarono nei boschi del Lamone altri tre briganti, il Biscarini, il Pastorini ed il Basili, che si erano nascosti nella stessa zona. Decisero di formare una banda vera e propria e si unirono sotto il comando del Biscarini, che aveva accumulato quasi più reati di Tiburzi ed era alto e possente come una montagna, tanto che faceva paura solo a guardarlo. Un giorno eravamo in ricognizione nei boschi e eravamo appena arrivati alla grotta del Paternale quando si vide uscire del fumo. Che serata fu quella! S'arrivò alla grotta del Paternale tutti fradici di pioggia e gonfi d'umido. S'accese un bel fuoco, ci si spogliò e si mise vestita a rasciugà. Siccome un tagliaboschi della zona ci aveva informato di aver visto delle presenze sospette, capimmo subito che erano i briganti. Siamo i carabinieri, sappiamo che siete là dentro, uscite disarmati e con le mani in alto. Appena ci s'accorse che c'erano carabinieri, si decise d'uscire tutti insieme a valanga, buttandosi nelle macchie. Io mi infilai le mutande, mi arrotolai pantalone alla vita e poi uscì sparando col fucile. Ora a chi tocca tocca. Appena intimato di uscire, si sentirono spari e urla e i briganti scapparono tutti insieme. Sparammo e ammazzammo il Biscarini. Gli altri quattro li ferimmo di striscio, ma ci scapparono. Mi presero di striscio a una coscia, ma siccome saltavo come un capriolo e correvo come un cinghiale, non ce la fecero a pigliarmi. Purtroppo si perse tutto quello che ci sapeva. Appena mi accorsi di non essere più inseguito, andai dal farmacista di Farnese a farmi medicare le ferite. Lui fu gentile, non fece la spia carabiniere e mi curò. Il giorno dopo andai a trovare un mio amico boscaiolo che di solito mi regalava da mangiare vestite e sigari. Gli detto un cinghiale che aveva appena ammazzato e gli chiesi di portarlo davanti alla porta del farmacista e di metterci sopra un biglietto che diceva «Tiburzi ringrazia». Allora ci si rese conto che si doveva trovare un nuovo capobanda e tutti scelsero me. Si iniziò allora a campare d'espedienti, si rubava un po' un qua e là, ci si faceva dal formaggio da contadini e la carne la si cacciava nelle macchie che erano piene d'animali. Poi quando finirono soldi si rapì un possidente che ci fruttò 4.000 lire, 1.000 lire a testa, una bella cifra visto che un bracciante per guadagnarsela doveva lavorare 600 giornate nei campi dalla mattina alla sera. A volte poi si andava a veglia da contadini, si andava a letto con le loro figliole, si cenava e si beveva. Poi io raccontavo le mie imprese, alle donne gli piaceva sentire le mie storie, solo che Cenciarello tutte le volte mi diceva: «Perché non gli racconti di quella volta che per la paura dei carabinieri alla grotta del Paternale tu sei scappato in mutande?» A un certo punto non ci vidi più, lo sfidai a duello e l'ammazzai, perché io sono buono e caro, ma non mi si deve pigliare in giro. Per non parlare del Basili, che rubava contadini anche se loro ci proteggevano da carabinieri. Gli dicevo di non farlo, ma lui non capiva. I ricchi andavano rapinati, mica poveri. ma siccome non capiva nulla, una sera che s'era veglia davanti al nascondiglio di Cerreta Piana, il Basilis addormentò sul pagliericcio e russava come un maiale. Il curato mi disse: «Senti come russa il maiale, che ci vogliamo levare il pensiero? Tu gli tiri una fucilata nel grugno, io nella coratella». Due fucilate, e anche lui non dette più noia a nessuno. Ora s'era rimasti in due e bisognava decidere come campà. Allora si chiese 1.000 lire al prete di Canino. Lui non ce le dette e noi gli si dette fuoco a due fienili, così imparava. All'età di 43 anni il brigante Domenico Tiburzi, detto il re del Lamone, aveva collezionato una condanna a morte, i lavori forzati a vita e 100 anni di galera, ma non c'era verso di prenderlo. Si rifugiava insieme al curato nei boschi e noi si cercava dalla mattina alla sera, ma nessuno l'aveva mai visto. Tutti i contadini negavano, i possidenti terrieri, che tra l'altro erano anche senatori dello Stato italiano e dovevano combattere il brigantaggio, dicevano che non lo vedevano mai in giro. Noi sapevamo che qualcuno doveva sapere qualcosa, ma tutti stavano zitti, o per paura o per convenienza. Un giorno interrogammo nella caserma di Farnese un certo Antonio Vestri, di professione boscaiolo, poiché volevamo sapere da dove venivano tutti quei soldi che spendeva sua moglie. Chiedemmo al Vestri se era vero che Tiburzi lo pagava per il suo sostegno materiale e dopo un paio d'ore di interrogatorio nelle quali il Vestri negava di conoscere Tiburzi, gli dicemmo che poteva scegliere: o ci aiutava a prendere il brigante o si metteva lui in carcere e si buttava via la chiave. Inoltre, se ci aiutava avrebbe anche intascato la taglia per la cattura. Così il Vestri accettò e ci accompagnò al nascondiglio della Murcia Bianca nella macchia dell'Elceta, ai margini della selva del Lamone. E me la ricordo bene quella mattina di 12 settembre. Ci svegliarono gli urli del brigadiere dei carabinieri che diceva d'arrenderci. In vita mia non mi son mai arreso, figuriamoci co' carabinieri. Con uno sguardo disse al curato cosa fa, si prese fucili e s'uscì di corsa dalla grotta, una a destra una a sinistra, sparandogli addosso, e così ci si infilò nella macchia, e mentre s'usciva si vide che dietro un albero c'era nascosto il nostro amico Vestri, che a quanto pare gli era venuta noia di vivere. Purtroppo quella mattina andò male, al brigadiere si inceppò il moschetto e chi poteva sparare sbagliò mira, e così ci scapparono anche quella volta. Appena scappati, il Vestri si scagliò contro il brigadiere Gesualdo Pinori, urlandogli che gli aveva rovinato la vita e che Tiburzi non avrebbe mai rinunciato alla sua vendetta ora che l'aveva visto. Il Vestri rimase chiuso in casa per la paura per più di 6 mesi. Poi una mattina andò nel bosco a fare legna e noi lo trovammo morto, ammazzato con 2 colpi di fucile, sgozzato, e accanto c'erano i suoi 2 asini ammazzati con 2 coltellate al ventre. 2 boscaioli assistettero al fatto e vennero a riferirlo alla caserma di Farnese. Ci dissero le parole esatte di Tiburzi: andate a Farnese e spargete pure la voce che gli autori del misfatto siamo stati noi. Ora il paese ha un farabutto di meno. Abbiamo ucciso i somari perché erano roba nostra, glieli avevamo dati in cambio dei suoi favori. Abbiamo ammazzato lui perché ci ha traditi. Innumerevoli delitti suoi, leggende paiono ma di fame eroi, i sacrifici ma furono assai, ma il numero preciso tu non sai. Son 5 o 7 orrori di Cettaluno, ma veramente non lo sa nessuno. Non lo sappiamo bene tu né io, il numero d'avverso lo sa Dio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tiburzi venne offeso in un istante, ucciso un giorno allora un altro brigante, e quel che era nomato il Cenciarello, un colpo gli tirò drenti il cervello. Basili rapinò 2 contadini, Tiburzi l'ammazzò con i biagini. Io fo' la legge venga rispettata, sparisce avrà una fucilata. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. È riverito l'ambo di signori, qui tutela la vita e valori, proteggendo costor da malviventi che in quelle lande scorrono frequenti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Stava per arrivare l'estate e io e il Biagini ci si stava spostando dal nostro rifugio invernale tra le rovine di Castro verso Montauto, dove si voleva prendere accordi co proprietari terrieri. Si cominciò dalle terre del principe Corsini, che ci aveva centinaia di bestie. Buongiorno, si voleva parlare della paghetta. Lui finse di non capì e così glielo spiega meglio. Vede fattore, noi latitanti alla macchia non si vive di spirito santo e siamo costretti a rubare a chi c'ha i soldi. Se chi ce l'ha si rifiuta di darceli, noi gli si brucia il raccolto del grano oppure gli si sgarrettano gli animali. Questa è la paghetta, mi sono spiegato? E si ricordi che si fa anche la vigilanza dell'azienda contro i ladri e gli sgarrettatori diversi da noi. Vedrà che gli conviene. Come lui, anche tanti altri accettarono le nostre condizioni. Tiburzi gli inventò che la paghetta è l'ero modo per poter campare. Per chi l'abbandonò la via più retta, andar dentro la macchia a latitare. È meglio che tirar di cinghia stretta, fra le frasche più fitte gli era stare. Questa l'era alla fine del brigante e dell'orribile vita soberrante. Nell'estate del 1893 intanto la taglia sulla mitesta era arrivata a 10.000 lire, ma nessuno parlava. La lezione data al Vestri era servita. I padroni poi, da quando pagavano la paghetta, erano a posto e i carabinieri per fortuna erano pochi, in tutto 25 uomini, 10 nella stazione di Orbetello, 5 a Manciano, 5 a Marsigliana e 5 a Capalbio. Un giorno col Biagini si stava andando alla Marsigliana quando incontrammo Luciano Fioravanti, che era latitante da pochi giorni. Aveva rubato un paio di stivali e per quello gli avevano dato 6 mesi di lavori forzati e le spese del processo. Lui era scappato insieme al principino. Mi chiesero di unirsi a noi e io gli spiegai le mie regole, ovvero d'onorare signori del territorio che pagano, d'aiutare disgraziati, di non ammazzare, di non vedere, di non parlare e di non far la spia ai carabinieri. Per qualche mese andò tutto bene. Poi il principino sparò un carabiniere alla Vallerana. Dopo 2 mesi che s'era insieme, ci aveva già dato troppi problemi. S'aspettò che s'addormentasse e poi s'ordinò al Fioravanti d'ammazzarlo. Quando arrivò il tempo della mietitura, tutti soffrivano, perché c'era tanto bisogno di lavorare. Erano venuti anche dalle Marche e dall'Umbria e erano così tanti che lavoravano per 2 soldi. Quell'anno però, nelle terre del Guglielmi, si scatenò una rivoluzione e tutti i braccianti si misero a sedere per terra per protestare e nemmeno le nerbate dei sorveglianti risolvevano la situazione. E proprio quel giorno ci venne incontro il ministro, ci spiegò la situazione e io gli dissi: «Non vi preoccupate per il raccolto, che ci si pensa a noi». S'arrivò davanti a mietitori con fucili ingrillati e gli si disse di continuare a lavorare, che se no avrebbero parlato fucili. Si rimisero subito a lavorassa. Questa cosa mi ci fece rimanere male, ma cosa potevo fa? Il marchese pagava regolarmente e poi quei poveri diavoli non avrebbero guadagnato niente a restare fermi. Io poi non potevo perdere la fiducia del marchese. I fattori chiamarono i briganti che vennero a fermare la rivolta. Questi, arrivando con fucili e schianti, ben presto la rivolta vien dissolta. Fu una rivoluzione di pochi istanti, agli operai la dignità vien tolta, a comandare son sempre i padroni e i contadini sono a pecoroni. decidemmo di setacciare il territorio intorno al fiume Fiora e ce lo dividemmo visto che eravamo in pochi. La mattina del 6 agosto arrivammo nei pressi della Valle Felciosa dopo aver camminato tutto il giorno prima e aver dormito nel bosco la notte. Eravamo stanchi, affamati e davanti a noi le boscaglie si estendevano fitte e scure a perdita d'occhio quando vedemmo i briganti che, avendoci sentiti arrivare, stavano scappando. Sparammo nella loro direzione ma non li colpimmo. Uno di noi vide bene il curato che scappava e lo inseguì. Gli tirò due colpi di moschetto. Appena girò dietro una siepe, il brigante era sparito. Non ci sembrava possibile che si fosse dileguato in un solo istante, per cui iniziammo a cercarlo e dopo mezz'ora vedemmo qualcosa in basso in un mucchio di sterpi. Scendemmo e ci trovammo il curato morto, perché a causa della caduta dentro il fosso gli era preso un accidente. Non potevamo certo dire che l'unico brigante che avevamo catturato era stato per merito di un infarto e così imbracciammo i moschetti e gli sparammo addosso per dire a tutti che l'avevamo ammazzato noi. Sul far della mattina il 6 d'agosto giunti alla valle che osa dir Felciosa, i militari giungono sul posto dove Tiburzio e gli altri si riposa. Circonda la boscaglia di nascosto, ciò che accadde fu cosa spaventosa. Accortosi Tiburzio dell'agguato, meglio morto che essere arrestato. Il brigante li sente e scappa via insieme al Fioravanti ed al Biagini. Cercare rifugio in dentro la foschia il curato raggiunto da Pallini. Di bestemmie compone un'omelia fra le frasche e gli acquitrini, raggiunto dalla cruda fucilata del Biagini, la vita ormai falciata. Nella primavera del 1893 ricevemmo l'ordine dallo Stato di arrestare tutti i favoreggiatori dei briganti. In due mesi arrestammo 40 persone. Il grande processo si tenne a Viterbo, davanti ad una folla enorme che spingeva alle porte del tribunale perché voleva assistere. Quando finì questo processo, i giudici avevano comminato complessivamente 140 anni di galera e 70 anni di vigilanza speciale. Quel processo ci aveva rovinato la vita. Nessuno ci voleva più aiutare per paura di finire in galera. Naturalmente i giudici avevano usato due pesi e due misure. I poveri disgraziati tutti in galera e i padroni a casa dopo pochi giorni e con una tirata d'orecchie e una pacca sulla spalla. Siccome per noi la Marimma non era più sicura, si prese tutti i nostri soldi e s'andò in Francia, si stette a Nizza, a Antibes e a Cannes. Si trovò dei locali dove bastava pagare la camera e a nessuno gli importava chi eri. Si beveva, si mangiava e si passava le serate con le donne. Dopo un anno e mezzo di bella vita finirono soldi e si decise allora di tornare a Maremma. S'arrivò col treno alla stazione della Nunziatella e s'andò subito al Poggio delle Forane a trovare il nostro vecchio amico Nazareno Franci. Appena lo vidi lo salutai e dalla sua espressione capii che non era molto contento di rivederci. C'erano ancora gli strascichi del processo di Viterbo. Si decise così di tornare nei boschi fra le macchie, rovi e l'umido. Non si voleva dar fastidio a nessuno. C'era bisogno comunque di qualcuno che ci portasse le cose che ci servivano, perché noi non potevamo entrare nei negozi per paura che ci denunciassero. E così si fece l'accordo con la famiglia del Franci. Loro portavano da mangiare e noi non si andava a trovarla a casa. Però Tiburzio ormai l'era invecchiato, la forza lo lasciava giorno giorno, la vita dentro i boschi aveva passato e ancora levar non si voleva di torno. Il suo compagno molto preoccupato l'assiste alle forane e lo portorno, un posto asciutto con il cibo e l'aria per lui piagato ormai dalla malaria. Ormai c'avevo 60 anni e la perniciosa mi faceva ammattì. Così decisi d'andare al podere delle forane per riposà. Mandà Fioravanti a avvisà che comprassero da mangià, da bere e anche qualche sigaro. Il 23 sera s'arrivò alle forane, si mangiò e poi m'accorsi che avevo bisogno di star fermo in un posto. Ero proprio distrutto da quella vita alla macchia. Ormai erano già 26 anni e il fisico cominciava a non reggermi più, ma lì non ci potevo stare perché i gendarmi venivano spesso a controllare. Così si decise di andare a Santa Barbara, ma ci voleva un cavallo robusto perché doveva reggere il mio peso e quello del Fioravanti. Donato Rappoli e Vincenzo Franci furono mandati a prendere una cavalla robusta. L'appuntamento era fissato alle forane alle 3 di notte. Quello che mi dava più fastidio era che io, il re del Lamone, dovevo dipendere dalla forza del Fioravanti. Ormai dovevo farmi aiutare anche Panda a cavallo. Io, che ero stato il terrore della Maremma, chiedere aiuto a qualcuno. Verso le 3 andò a vedere nel boschetto davanti casa se era arrivata la cavalla. Poi tornò e mi disse che era tutto a posto. Io mi appoggiai a lui e uscì di casa. Quella notte il ministro del Collacchioni ci buttò di sotto dal letto e ci disse che se volevamo prendere Tiburzi dovevamo andare alle 3 di notte alle forane, perché sarebbe partito da là con la sua cavalla che gli stavano portando in quelle ore. Appena usciti si vide delle figure vicino al boschetto e si capì che qualcuno ci aveva traditi. Io mi buttai per terra e urlai al Fioravanti di scappà e rimase a fronte a carabinieri solo a colpi di pistola. E quando capii che ormai per me era finita, decisi d'ammazzarmi. Mi misi la pistola alla tempia e sparai proprio mentre sentivo colpi dei carabinieri che mi arrivavano sulle gambe. Le notizie in Maremma si spargono alla svelta e la mattina all'alba era pieno di gente che veniva a vedere il cadavere della leggenda, legato con due corde a una vecchia colonna romana che era dentro il cimitero di Capalbio. Si ricompose, gli nascondemmo la ferita alla testa col cappello e nella mano destra gli mettemmo il fucile, tanto che a vederlo sembrava ancora vivo. Poi gli facemmo una fotografia. L'unica. Il giorno dopo arrivarono i medici legali e questo fu il risultato dell'autopsia. La tibia sinistra è ferita da 6 colpi, la destra da 2. Metà del cranio è stata distrutta da un colpo ravvicinato di pistola. Il peso della massa cerebrale è nella norma, circa 1,240 kg escluso il cervelletto. 61 centimetri misura la circonferenza della testa, 5 lo spessore del cranio, 8 l'altezza della fronte, 14,5 la distanza degli occhi, 96 la circonferenza del petto e 160 la statura. Il medico legale prelevò la metà intera del cervello e la mise in alcol dentro un contenitore di vetro per inviarla all'esame dell'antropologo criminale Cesare Lombroso. Io, Domenico Tiburzi, re del Lamone, visto che m'era ammazzato e che aveva ammazzato, fui seppellito come comandava la chiesa, senza cerimonia funebre, senza benedizione, e sepolto nella parte non consacrata del cimitero. La mattina del 28 ottobre mi buttarono, così com'ero e senza la bara, nel fango della fossa comune del cimitero di Capalbio. Qualche anno dopo, l'amico di Tiburzi, Fioravanti, fu ammazzato da alcuni contadini che prima lo fecero ubriacare e poi gli spararono da addormentato. Fu seppellito nel cimitero di Manciano. 4 anni più tardi, i mancianesi misero in atto la loro ribellione. All'alba del Novecento morivano i briganti e nascevano le prime lotte contadine. Quell'anno a Marsiliana tutti insieme i contadini invasero pacificamente le terre incolte del principe Corsini facendole proprie. E di Tiburzi finisce la storia, un vile agguato alfin l'ammazzò. E la rivolta dei contadini le terre incolte conquistò. stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia, larga la via e stretta è la foglia, ne dica un'altra chi n'avrà voglia. Ormai finito è il brigantaggio, il contadino ha preso coscienza, muta la storia a suo vantaggio, popolo s'alza con veemenza. Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia, larga è la via e stretta la foglia, ne dica un'altra chi n'avrà voglia. Inizierà una nuova stagione, senza le armi né colpo ferire, senza più schiavi, nessun padrone, s'alza il sol dell'avvenire. Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia, larga la via, stretta la foglia, ne dica un'altra chi n'avrà voglia.